Quando sentiamo parlare di stranieri, molto spesso i primi stranieri a cui pensiamo sono quelli di cui leggiamo sui giornali o di cui sentiamo parlare ai telegiornali, cioè gli stranieri autori di qualche reato. Più difficilmente sentiamo parlare invece della maggior parte degli stranieri che vivono in Italia, che conducono una vita pacifica e nella legalità, pur vivendo situazioni di disagio, da cui poi nascono anche le storie di delinquenza che invece arrivano fino alle pagine dei giornali e sullo schermo delle nostre televisioni. È una maggioranza silenziosa di cui non si parla mai, e non si parla mai soprattutto delle difficoltà, del disagio che molto spesso vivono, un disagio prima di tutto economico, perché sappiamo che molto spesso la fascia più povera della popolazione, quella che vive le peggiori condizioni socio-economiche, coincide con la fascia di popolazione straniera e con le famiglie di immigrati. Alle difficoltà economiche, che pure vivono anche famiglie italiane, si aggiungono poi le discriminazioni dovute alle loro origini. Pensiamo ad esempio ai ragazzi di seconda generazione, ragazzi nati in Italia, cresciuti in Italia, hanno frequentato le scuole, parlano perfettamente italiano, eppure fino ai 18 anni, quando va bene, ma molto spesso questo periodo dura altri anni dopo la maggiore età, non hanno la cittadinanza e quindi non godono degli stessi diritti di cui godono i loro coetanei, le persone con cui crescono. Bader è un ragazzo che frequenta Happiness, ha origini marocchine ma è nato e cresciuto in Italia. Ha provato a raccontarci nel suo piccolo, nella sua esperienza, quali sono le difficoltà che un ragazzo di seconda generazione, ma potremmo dire qualunque ragazzo che vive un certo tipo di situazione e di condizioni, si trova ad affrontare nella sua vita. Ciao Bader. Ciao. Allora, quanti anni hai? 21, compiuti da poco. Quant'è che frequenti Happiness? E ormai sono circa 3 anni e mezzo quasi. Happiness, il contesto Happiness l'ho conosciuto casualmente, perché un'estate, piuttosto che stare in giro per il centro, eccetera, preferivamo io e i miei amici ritrovarci qui, perché era un contesto dove ci si trovava bene, si giocava. Cioè, adesso sono uno dei volontari di Happiness. Qui diciamo che la prima impressione che mi ha dato è un senso di tranquillità, nel senso non sei obbligato a far nulla e non sei obbligato ad aver nulla per entrare in questo contesto, quindi tranquillamente uno può entrare, giocare e uscire. Tu sei nato in Italia? Sì. I miei genitori sono di origini marocchine, io ho una sorella, anche lei è nata e cresciuta qui in Italia, a Varese. Che ruolo ha avuto innanzitutto la rinuncia? Che cos'è per te la rinuncia e che cosa è stato per te la rinuncia nel tuo percorso, nella tua vita? La rinuncia, se così possiamo dire, è un sentimento che mi accompagna da sempre, e anche i miei genitori penso, perché comunque, cioè, hanno rinunciato a stare al loro paese, ad abbandonare la propria famiglia, eccetera, per fornirci un futuro migliore. La rinuncia nei miei confronti è sempre stata presente, come ti ho detto, perché mi piace sempre mettere luce, soprattutto sui ragazzi, magari dell'età che iniziano le superiori, le scuole superiori, e quel periodo lì è un periodo di crescita dove non sa appieno cosa veramente vuole, i suoi obiettivi, il suo futuro, è tutto molto incerto. Però molti ragazzi purtroppo rinunciano magari a continuare gli studi per via sia dell'incertezza di non sapere cosa fare, ma soprattutto molti rinunciano allo studio magari perché dicono: io ho una certa situazione a casa, vivo in certe condizioni, e si sentono in dovere di mollare la scuola per andare a lavorare, per non sentirsi un peso. Io fortunatamente non ho mai abbandonato i miei studi, però ho rinunciato a tante cose, come semplicemente il divertimento con gli amici, anche l'andamento scolastico rinunci, perché comunque se te lavori il pomeriggio o comunque metà giornata o la notte, cioè non hai il tempo sufficiente per studiare, eccetera. Quindi trovi un compromesso e dici ok, io studio, cerco magari di impegnarmi più in classe, di seguire, però allo stesso tempo sono quasi obbligato, cioè devo andare a lavorare. Tu quando è che hai iniziato a lavorare? Allora, io ho iniziato a lavorare in quarta superiore. In quarta superiore ho trovato questo lavoro, si lavorava la sera. Magari si faceva il turno di notte, il mattino dovevo svegliarmi per andare a scuola. E, che lavoro era? E sono, è un servizio di facchinaggio, appunto carico e scarico dei camion a servizio del teatro, di eventi, eccetera. C'è stata una tua scelta, okay, o ti è stato anche chiesto una mano dai tuoi genitori? Fortunatamente i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla, però mi hanno anche insegnato che esiste anche questo. Esiste anche l'indipendenza economica, esiste anche l'aiuto. Se tutti ci aiutiamo facciamo meno fatica a casa, no? E quindi dopo ci arrivi, cioè un ragazzo ti viene quasi spontaneo e dici forse è l'ora che mi devo muovere anch'io, perché poi iniziano anche magari le prime uscite con gli amici, magari la sera, magari il pomeriggio. Magari uno ha una passione, gli piace comprare i propri vestiti, eccetera, quegli sfizi, eccetera. E i tuoi amici di allora, anche quelli di adesso, condividono anche loro il fatto di avere origini, genitori che vengono dal Marocco piuttosto che da altri paesi, oppure quindi ci sono anche ragazzi con famiglie di origini italiane? Io ho diverse conoscenze, conosco veramente, penso, tante persone, però il mio gruppo stretto di amici siamo tutti figli di immigrati da altri paesi. E non è per niente scontato che un ragazzo in quarta superiore dica ok, prendo e vado a lavorare, perché ci sono anche molte altre strade. Cos'è che secondo te nel tuo caso ha fatto la differenza e diciamo perché altri prendono scelte diverse? Io penso che parta innanzitutto da ovviamente un'educazione che uno gli viene trasmesso. Non fa tutto, perché comunque un ragazzo può avere un'educazione eccellente e magari prendere strade che non rispecchiano quell'educazione che ha ricevuto. Dicendo questo, mi viene da dire che conoscendo e avendo anche gente che ha preso strade diverse, magari procurandosi l'indipendenza economica diversamente, magari non lecita, eccetera, si sa la fine che fanno, si creano ulteriori problemi, eccetera. Quindi abbiamo usato quello come esempio, dico abbiamo, nel senso che ci sono molti ragazzi come me o che piuttosto che prendere strade semplici che però sono corte e non ti portano da nessuna parte, preferiscono far fatica e prendere quelle come esempio da non fare. E invece passando all'altro tema, che è quello dell'etichetta, cioè dell'essere etichettato, oggi che si sente sempre più spesso parlare di maranza, di baby gang, che un certo tipo di ragazzi, soprattutto adolescenti, vengano inquadrati in questo modo, a prescindere che poi siano bravissime persone oppure ragazzi che ogni tanto combinano qualche casino. Questo discorso vale soprattutto per ragazzi e figli di immigrati. Qui volevo chiederti, nella tua vita, che rapporto hai avuto con appunto l'essere etichettato, che rapporto hai avuto con le discriminazioni, se ce ne sono state? Allora, posso dire che le ho vissute, diciamo, discriminazioni nel contesto scolastico piuttosto che in giro, eccetera. Diciamo che la maggior parte di queste situazioni le ho vissute purtroppo in età molto giovane, cioè che ero magari alle elementari, comunque alle elementari si ha 7-8 anni, cioè è molto difficile comprenderlo. Un bambino, un ragazzo molto piccolo, assorbono tanto i ragazzi molto piccoli. Poi andando avanti anche alle medie, semplicemente vedevi anche le differenze, non solo, che ne so, dalle origini, eccetera, però vedevi differenze sulla classe sociale. Magari c'era quel ragazzo che era un attimo più fortunato economicamente, però al giorno d'oggi, cioè vedendo anche l'esempio di Happiness, magari un ragazzo te lo vedi, diresti è un maranza, è un criminale, è un ragazzo che ha mollato scuola, è un tonto, non fa niente, fuma tutto il giorno. Se non ci si ferma solo all'apparenza e si va a fondo sulla propria storia, su cosa veramente sa fare, eccetera, si scoprono talenti, passioni, persone soprattutto, e non etichette o copertine che non rispecchiano la persona dietro. Allora, visto che hai parlato di happiness, ti chiedo proprio che cosa hai trovato qua, anche in relazione al discorso, ai discorsi che hai appena fatto, cioè sia per quanto riguarda il discorso del lavoro, sia per quanto riguarda l'essere etichettati, l'essere discriminati. Allora, io se posso dire happiness, quando diciamo ho iniziato il momento veramente di rinuncia nella mia vita, mi ha accompagnato con tutti i vari volontari che ci sono, che mi hanno sempre sostenuto, mi hanno aiutato, che ne so, a recuperare anche a scuola. Avevi delle persone a fianco che non erano solo i tuoi genitori, ma avevi anche altre persone che secondo me fa tanto questo. Non è scontato. Invece, dal punto di vista appunto delle etichette, come ho detto qui, il bello di happiness o quello che ho trovato io è che se te sei una persona che ha commesso un reato, ha mollato scuola piuttosto che fa altre cose, guardano veramente chi sei te, sono lì, parlano con te perché veramente ti vogliono aiutare, non perché sono pagati, che ne so, dallo Stato o. Faccio un'ultima domanda. Che cosa ti piacerebbe diventasse happiness se immagini che possa essere qualcosa di diverso, ma magari vuoi che rimanga esattamente come oggi? Allora, io spero innanzitutto che continui happiness come sta crescendo in questi anni. La cosa che mi auguro tra 10 anni, non che cambi happiness, ma che si creano altri luoghi, altri posti come happiness, cioè che vedano come modello happiness e non so, personalizzano un altro luogo come happiness, secondo me sarebbe una cosa incredibile. Grazie, Bader. Grazie a te.